sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Paola è seduta sul piattello di prua. Allarga il braccio indicando qualche cosa a dritta. Guarda, c'è un uomo in mare. Ma dai, rispondo io. È una boa. No, no. Guarda, indossa un giubbotto fosforescente, non è una boa. È un uomo. Sono Federico, vivo a Genova, ho 49 anni, sono sposato, sono un impiegato. Mi piace il mare, mi piace viaggiare e ho questa passione per trovare qualcosa di inaspettato in mare. Quando raggiunsi la panca al centro della scialuppa, mi rianimai come se avessi toccato la terraferma. Piantai entrambi i piedi sulla panca e per un attimo mi godetti la sua solidità. Mi girava la testa e poiché mi preparavo alla fine, quel capogiro accrebbe il mio senso di sublime, terrificante esaltazione. Mi portai al petto le braccia, le mie uniche armi contro la iena che alzò lo sguardo verso di me. Aveva la bocca sporca di sangue. Vicino a lei giaceva Oran Juice, addossata alla zebra morta. Con le braccia spalancate e le corte gambe leggermente inclinate da un lato, era la versione scimmiesca di un Cristo in croce. Però le mancava la testa, era stata decapitata. Dal collo reciso continuava a sgorgare sangue. Era una vista orribile per gli occhi e letale per lo spirito. Prima di scagliarmi contro la iena, abbassai brevemente lo sguardo. Tra i miei piedi, sotto la panca, vidi la testa di Richard Parker. Era enorme. Ai miei occhi stupefatti sembrò grande quanto il pianeta Giove. Le zampe erano tomi dell'Enciclopedia Britannica. Tornai a prua e crollai in ginocchio. Passai la notte in uno stato di delirio. Mi pareva di avere dormito e di avere sognato una tigre. Questo è uno dei pezzi più belli di Vita di Pi di Ian Martell, che probabilmente avete visto al cinema o avete avuto la fortuna invece di avere tra le mani e quindi di leggere. È la storia di questo ragazzino che fa naufragio, si trova su una scialuppa, intorno a lui ci sono degli animali o presunti tali. Parla di storie, parla di animali e parla di ritrovamenti in mezzo al mare. Lui in questa scialuppa dove ci sono altri animali, a un certo punto, in questo punto che vi ho letto, si accorge che tra gli altri animali, un orango, una iena e una zebra, c'è anche una tigre. E da lì la storia prosegue. Leggetevi il libro se non l'avete fatto, recuperatevi il film. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, è un bel venerdì, ancora di vento qui a Milano e noi raccontiamo storie, che è quello che facciamo sempre, raccontiamo storie però nello specifico di ritrovamenti in mare. 349-238-6666 sono gli sms a cui mandare il vostro ritrovamento in mare, qualunque mestiere facciate vi sarà capitato di essere in mare e magari di trovare qualche cosa. Oppure voi siete qui, Radio 24 è il profilo Facebook sul quale ad esempio Antonella ha già scritto: durante un giro in pattino, ecco appunto, vale tutto, vale anche il pattino o il pedalò. Il pattino è quello a remi, giusto? Paolino, te che sei della zona, il pattino è a remi, il pedalò è a pedale, giusto? Quindi probabilmente lei intendeva il pattino, intendeva il pedalò. Ma chi se ne fa? Sì, però di solito non leggi il pedalò, non leggi il pattino. Vabbè, quello che è a largo di Riccione. Io e mio marito abbiamo trovato una scrivania in legno di quelle da vecchio ufficio postale. Però 349-238-6666. La storia di oggi, la storia di Federico, è una storia che magari qualcuno, pochissimi, conoscono già. Parlo di quelli che erano presenti al live del Salone Nautico di Genova che abbiamo fatto domenica 5 ottobre. C'erano 150 persone, abbiamo letto 10 storie. Alcune sono già andate in onda in uno speciale, quello del giorno dopo, era lunedì 6 ottobre. Altre invece le abbiamo recuperate perché sono storie molto carine e molto divertenti. Nella fattispecie quella di oggi è quella di Federico. 349-238-6666. Paolo, navigando tra Pantelleria e la Tunisia, ho trovato una cassa di quelle vecchie da viaggio. L'ho caricata a bordo, ci ho messo 3 ore per aprirla, era vuota. Oggi fa bella mostra di sé in camera mia. Ecco, non trova una cassa, non trova una boa, ma trova un essere umano che fortunatamente sta bene, ma è in mezzo al mare e ha qualcosa da raccontare a Federico. Rientriamo. Finisce così la giornata di domenica sul mare con il nostro bel ferro da stiro, come simpaticamente viene indicato il motoscafo, quello con il motore, a dispetto di coloro i quali invece solcano le onde con graziose silhouette a vela. Siamo in 6 in barca. Paola, quella che sarebbe poi diventata mia moglie, Paolo, Monica, Francesco e Consuelo. e soprattutto Mr. Evinrud, un concentrato di tecnologia anti-ecologico da 80 kg e 90 cavalli. Eh sì, è già tardino, sono quasi le 20 e a fine agosto il sole è basso all'orizzonte e disegna uno scintillio uniforme sulle onde appena increspate. Sulla rotta che da Camogli parte verso il fanale di Levante della diga foranea di Genova si allargano le scie di decine di altri piloti della domenica, chi con motoscafi d'altura, motobarche di turisti di ritorno dalle Cinque Terre, piccole barche, gozzi, vele ammainate con mesti rientri a motore. Insomma, avete presente i piazzali dei caselli tipo Melegnano alle 8 di domenica sera d'agosto? Ecco, tale e quale. Più o meno ogni domenica andavo a fare questa scampagnata in mare ed eravamo in grande compagnia, c'erano tantissime barche. Paola è seduta sul piattello di prua, allarga il braccio indicando qualche cosa a dritta. Ehi, c'è un uomo in acqua! Ma dai, rispondo io, è una boa, è uno di quei cavitelli che i pescatori lasciano a mollo per poi recuperare a fine giornata. No, no, guarda Fede, indossa un giubbotto fosforescente, non è una boa. È un uomo. Siamo a 3 miglia al largo della scogliera di Pieve Ligure. In effetti il sole, complice il tramonto, nasconde il naufrago a momenti. Mi guardo attorno e vedo le prue alte, protese verso il rientro. Di colpo capisco, do gas, accosto e taglio la rotta, in modo da mettermi al traverso per proteggerlo dalle rotte nemiche. Mentre mi avvicino, la figura si gira e mi osserva con uno sguardo stupito. Un ragazzo con un giubbotto sportivo, intorno per un miglio almeno il nulla, solo la costa, distante 2 miglia o più. Guarda, e mi dice, questo qui non c'è arrivato da solo. Buonasera, azzardo. Salve, risponde. Bene, penso, almeno non è sofferente. Scusa, che cosa ci fai qua? Da dove vieni? Lui, ma guarda, ero con la mia ragazza su una moto d'acqua. Lei continuava a girare, a saltare su e giù e io cominciavo a soffrire, avevo un po' di nausea. Ah, gli dico, e così hai pensato bene di scendere? Eh sì, mi dice lui, solo che poi lei si è messa a girare e adesso non torna più. Noi ci guardiamo. Dai, sali, gli dico. No, grazie, sai, comincia a stare un po' meglio. Non è che potresti andare a chiamarla tu per dirgli che mi venga a prendere? Caro, gli dico, hai presente cosa ci fa un gatto in tangenziale? Un gatto? Cosa c'entra un gatto con il mare? Risponde curioso. No, il gatto sei tu e non sei nella migliore posizione per imparare a nuotare. Dai, sali in barca. Appena sale a bordo, vediamo un turbinio di getti ad arco che ondeggiano a un miglio a ponente. Eccolo là, dice. Io aumento i giri e poco dopo raggiungo il circo disegnato sull'acqua e le segnalo di fermarsi. Ma sei impazzito? Ma dove cavolo eri finito? Lei praticamente è una tigre. Scusa amore, ma eri tu che dovevi... Io un cazzo! Chiedo scusa, dico io, se vi interrompo, lo so, ma ci siete o ci fate? Forse non avete idea di quello che avete rischiato. Guarda, se è per me, la prossima volta al mare non ce lo porto più, esclama lei. I due litiganti di questo racconto erano una coppia formata, quindi un ragazzo e una ragazza. La ragazza guidava la moto, il ragazzo soffriva al mare stando su questa moto d'acqua, e quindi lui tranquillo e lei molto agitata. Noi sei ci guardiamo, tutti stupiti e tutti senza parole. Ciao ragazzi, grazie, ora scendo perché comincio di nuovo ad avere un po' di nausea. Paura, eh? Dice Francesco al superstite. Guarda, se potessi parlare, ammicca lui. Si tuffa, il giubbotto sale, si sfila e lo sfortunato riappare nei flutti dimenandosi e dicendo: scusami Lena, aiutami, non so nuotare. Noi ci guardiamo stupiti, osservando se qualcuno di noi, alla fine sbuffando, si accinga a fare un ultimo tuffo. Aspetta. Rivolgo l'invito a Paolo, che era già pronto a poppa con il salvagente. In realtà non è che non sapesse nuotare. Forse era solo per fargliela pagare. Faceva finta. Ma sei proprio una frana, dice lei. Lascia il bolide, scende in acqua, raggiunge con una mano il naufrago, che si lascia finalmente andare, e rivolto verso di noi, agita la mano alla Fonzi, alzando il pollice e sorridendo. Buon rientro, urlo. Grazie. Alla fine la ricompensa è arrivata. I due inforcano il sellino e spariscono dietro la schiuma. Come lana sulla pelle, quella dura irlandese, prude adesso la tua voce nelle mie orecchie piene di stronzate che mi hai detto, di promesse che mi hai fatto, come quando hai detto stai tranquillo, io ti amo non per quello che guadagni, ma per quello che tu sogni, una vita senza pani, con giardino, con dei fiori. E immagino con Paola, protagonista anche lei della storia, Federico, nella foto che ci ha mandato e trovate sul nostro sito. È un autoscatto, quella di quelle col braccio tenuto lungo. Sono in tenuta tipicamente turistica, magliettine tecniche, zaino in spalla, cappellino e alle spalle non il mare ma uno splendido lago verde e delle montagne. Pronto Federico, buongiorno. Ciao Matteo, sono qua. Come stai? Bene, bene, grazie. Come dicevo prima di raccontare la tua storia, noi ci conosciamo perché ci siamo non solo visti, ma abbiamo anche già raccontato questa tua storia al live del Salone Nautico di Genova un mesetto fa circa. Come stai da allora? Tutto bene? Bene, abbiamo passata di acqua sotto i ponti qua a Genova. Immagino. Parecchio. Tu sei genovese, giusto? Sì, proprio Genova città. È stata la domenica dopo praticamente. Eravamo lì la domenica prima. Come va adesso a Genova la situazione? I ragazzi hanno fatto un buon lavoro. I ragazzi sono quelli che hanno pulito tutte le strade. Sì. Diciamo che grande del merito è loro. In che zona stai di Genova tu? Io sono a Levante, verso Nervi, diciamo, nella parte a Levante del centro. Non ci sono stati. No, ok, non è stata toccata quella parte. Qual è la parte cruciale di Genova che viene sempre investita dall'acqua? Nel centro di Genova, all'altezza della stazione ferroviaria di Brignole. È la parte più colpita per colpa di questo torrente, virgolette, maledetto, che è il Bisagno, che quando non riesce a far defluire l'acqua si tappa e l'acqua esce. L'acqua deve trovare la sua via, dicono i vecchi. A distanza di 2 settimane com'è adesso la situazione? Insomma, al di là del traffico che è ripreso, ieri sentivo notizie terribili riguardo ai commercianti, che pare che siano stati persi 10 milioni di euro, una roba del genere. È così, cioè i negozi purtroppo sono quelli che poi dopo pagano il conto, perché le strade le pulisci, la gente per strada riprende a andare in macchina, però i commercianti, soprattutto quelli dei piani bassi nella zona della Foce e a Brignole, appunto, alle spalle di Brignole, sono quelli che vengono più penalizzati. È la nostra tara, ce la portiamo dietro oramai da tanti anni. Senti, continuiamo a parlare d'acqua, però dell'acqua in cui avete trovato questo tizio naufrago. Insomma, alla fine mi sembra di capire che in realtà questo un po' stava facendo una parte, no? Perché appunto, come dici tu, in realtà non era vero che non sapeva nuotare, voleva solo farla pagare a questa tigre. L'idea era quella, anche perché guarda, c'era davvero tanta distanza fra lui e questa amazzone, come la definisco io, che saltava su e giù, e lui era da solo, era fermo, cioè non particolarmente tranquillo, però secondo me forse un po' preoccupato, alla fine lo era, perché anche lui avrà visto le altre barche che stavano rientrando. Tu non hai più la barca, mi dicevi, a Genova? No, non l'ho più, ma ottengo sempre la patente nautica pronta a disposizione per eventuali occasioni che possano capitare, magari adesso si affitta. Certo, quindi in estate il genovese medio, stiamo generalizzando, quindi come tutte le generalizzazioni non raccontano la realtà ma solo una parte, ma è uno che va per mare o preferisci stare sulla costa, sulla spiaggia? Allora, diciamo che il 50-60% del genovese medio va in spiaggia. Ok. E la restante parte te ne accorgi, perché di solito il genovese medio esce fuori dal porticciolo, si ferma a 200 metri dal porticciolo, butta l'ancora e dice: ah, oggi sono stato in mare. Ok. E sono più velisti o più smotoristi? No, diciamo che si dividono a metà strada fra velisti e motoristi. motoscafisti, diciamo così, se il termine può essere giusto, però andare a vela comporta anche un po' di fatica, non solo. Di solito il velista, si dice, è una persona che si sveglia presto al mattino, sta in mare tutto il giorno, si fa un'enorme fatica e rientra molto tardi alla sera. Ok, quindi insomma, vista così non ci sarebbe un motivo al mondo per andare, per andare in barca a vela. Una volta ricordo avevamo noleggiato una barca con un amico siciliano, che era la prima volta che ci metteva piede, ma essendo siciliano comunque in realtà il mare lo frequentava con amici, aveva il babbo che era pescatore, eccetera eccetera, e mi ricordo che dovevamo raggiungere un'isoletta delle Eolie e diceva ma perché non possiamo accendere il motore e andare dritti invece che fare dei bordi a zig zag? E tutto sommato ogni tanto dicevo forse ha ragione lui, invece gli altri velisti in barca dicevano ma non lo senti il silenzio, il rumore del mare, il rumore del vento, sono ovviamente dei punti di vista diversi. Mi ricordi che cosa fai tu, Federico, nella vita? Dunque, sono impiegato in una multiservizi del nord-ovest, facciamo gas, luce e acqua. Ok, quindi vai in giro o stai in ufficio? No, sono in ufficio e diciamo gestisco il flusso dati delle letture del gas del genovesato. Il flusso dati del genovesato, fantastico. Il flusso dati gas, delle letture. Ok, specifichiamo, solo gas. Grazie ancora Federico, in bocca al lupo per tutto e saluta Paola. Grazie a voi, Radio 24. A presto, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. E alla fine della storia di Federico ho capito che, primo, nel mare della Riviera Ligure ad agosto c'è sempre un gran traffico. Secondo, se vedi una cosa che si muove in mare, non sempre è una boa. Terzo, se soffri il mal di mare, stai a terra. Quarto, se hai una fidanzata stronza, non andarci in vacanza. Quinto, se hai una fidanzata stronza, forse prova a pensare di mollarla. 349-238-6666. Ci sono delle persone che in mare hanno ritrovato delle cose, non era per forza una boa o un uomo che assomigliava ad una boa. Sergio scrive: ho trovato un materasso, non un materassino, è proprio un materasso in una caletta greca che frequentai per 3 settimane. La sera prima non c'era, il giorno dopo sì. Questo non è proprio in mare, però Sergio è come dici tu, appunto, è in una caletta. Paolo invece: ho attraversato l'Atlantico in barca a vela. Paolo appartiene alla categoria di cui parlava prima Federico, dei velisti, anche i leghisti secondo me si alzano presto la mattina, però dei velisti che si alzano presto la mattina, fanno una gran fatica e tornano tardi la sera. Ho attraversato l'Atlantico in barca a vela con 5 amici, abbiamo ritrovato un canottino pieno di scarpe. Perché poi è vero questa roba che in mare si trovano delle cose che non ti immagini. C'è la leggenda di quell'isola di plastica, che c'è un'isola fatta di tutti i pezzi di plastica nell'oceano, credo Pacifico, che sono riuniti dalle varie correnti dell'oceano. C'è questa specie di isola galleggiante fatta di rimasugli di plastica buttati in mare, ma che in un modo o nell'altro sono finiti in mare, e pare sia una sorta di isola enorme che galleggia e si sposta in base ai venti e alle correnti. Abbiamo chiuso anche oggi, io vi auguro un ottimo fine settimana, scaricate i podcast, ascoltatevi il programma come volete, andate sul sito nostro e vi trovate anche le canzoni che mandiamo in onda, visto che spesso ci chiedete quali sono. Nella puntata di oggi, incredibilmente, ringrazio il nostro assistente Marco Lombardo, che abbiamo avuto l'onore di avere, lui che fa sempre cose serissime insieme alla Rosciani e alla Carbone. Grazie a Paolino Corleone e a Corleoni e a Tiziano Bonini. Grazie soprattutto a Federico, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Auto d'epoca, alla Fiera di Padova dal 23 al 26 ottobre. Vi ha presentato Voi siete qui.